vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 29 luglio, il sole in regione sorto alle 5.45 e tramonterà alle 20.42. La luna è calante e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Armando Mucchino e Rita Micoli. C'è ancora spazio per iniziative editoriali dedicate all'agricoltura. La riprova con il magazine Sole Verde, edito a Udine, che entra nei problemi del settore primario e fugge da quell'agricoltura a cui piace piangersi addosso. Nel servizio di apertura l'intervista al suo direttore Adriano del Fabro. Ci sarà poi il corsivo di Enos Costantini, una lode all'erba e al sole, i fondamenti dell'industria casearia che tanta storia ha avuto in Friuli. A seguire tutta la normativa sugli allergeni che chi si occupa di agroalimentare deve conoscere anche per evitare multe salatissime. Ultima puntata poi della serie dedicata alle piante tintorie, di scena il nero, e a seguire una scheda del giardino comunale di Spilimbergo e per la storia della grappa le prime guerre commerciali che si svilupparono intorno a questo distillato. Andamento dei mercati, previsioni del tempo per la settimana entrante e il proverbio friulano della settimana chiudono la puntata. Sole verde, robe di campo in Friuli Venezia Giulia, il titolo di un bimestrale cartaceo diretto da Adriano Del Fabro, giornalista e anche perito agrario di Udine, che da tempo si è occupato dei temi dell'agricoltura. Come mai una nuova pubblicazione sull'agricoltura? Qual è l'esigenza? La SMA della famiglia Piasenzotto, che era casa editrice, ha pensato che in Friuli mancasse un magazine di questo tipo per entrare nelle aziende. È un magazine indipendente che raccontasse l'agricoltura nuova, moderna, aperta, dei giovani con le nuove esperienze, che arrivasse direttamente nelle aziende. Quindi un veicolo, chiamiamolo facile, per raccogliere la pubblicità, perché questo è un free press, quindi può arrivare a casa a gratis. Non è una scelta univoca, perché sul sito ilpaese.it, quando esce, lo si può sfogliare gratuitamente da internet, per cui se uno non ama o non gli interessa o non viene raggiunto dalla carta, può usare il digitale tranquillamente. Chiamarlo magazine forse è un pochettino fuorviante. Andate anche all'interno dei problemi, delle cose, dei dibattiti, si va anche certamente contro tanti luoghi comuni. Sì, ci sono molti luoghi comuni ancora, in particolare diciamo di chi è fuori dal settore, secondo me, legati appunto al mondo agricolo. Noi cerchiamo di raccontare non il mondo agricolo delle cartoline, non il mondo agricolo della pubblicità, ma il mondo agricolo reale, perché nel mondo agricolo ci sono imprenditori, ci sono giovani che studiano, ci sono ricerche, io partecipo ai convegni, cerco di raccogliere relazioni, se incontro studenti interessanti, come nel caso del numero precedente dei lavori, una tesi di laurea fatta sulla canapa industriale di grande attualità, ho chiesto la concessione, il laureato è intervenuto sulla rivista, ecco, quindi di presentare le novità e di presentare l'agricoltura vera, anche perché noi vogliamo parlare agli agricoltori e a chi non è agricoltore, raccontando l'agricoltura di tutti i giorni, che è sudore, che è sacrificio, che è anche soddisfazioni, perché lavorare e vivere in campagna può essere bello, però appunto è anche sudore, impegno, professionalità, investimenti e tutto quello che ne consegue. Abbiamo visto tanto spazio all'agroalimentare. Quello che vogliamo raccontare è l'intera filiera, quindi la produzione o le filiere, perché ovviamente parliamo di uva ma anche di vino, parliamo di orzo ma anche di birra, parliamo di vacche ma anche di latte e di formaggio. Ecco, questo perché penso che l'agricoltura debba stare insieme all'agroalimentare. Alle volte in molte aziende ormai coincide, perché molte delle nostre aziende sono multifunzionali, altre volte no, però l'agricoltore, l'imprenditore agricolo, secondo noi, deve avere un ruolo maggiore, più importante, più rilevante dentro le filiere. Prima ci hai detto siamo contro l'agricoltura che si piange addosso. Non ci interessa, non la vogliamo raccontare, siamo stufi di questa agricoltura che si piange addosso, che forse è un'agricoltura vecchia, forse anche questo è un luogo comune, perché si dice che gli agricoltori si lamentano sempre. Non è vero. È vero che l'agricoltura, svolgendosi in piena natura, subisce l'inclemenza del maltempo. Bene, ci sono le assicurazioni, però non sempre, non dappertutto. La variabilità dei mercati, il latte può calare, crescere da un giorno all'altro, sull'altro di valore e quindi l'agricoltore sicuramente è più esposto. Però la gran parte dei nostri imprenditori agricoli rispondono, si attrezzano, i giovani crescono, si laureano, si formano, affrontano i mercati con grande capacità. Cosa fare per vederselo portare a casa dal postino? Basta scrivere una mail a news@smacomunicare.it con l'indirizzo dove lo si vuole ricevere e arriva gratuitamente a casa, ovviamente nel territorio friulano. Chi ha qualche parente fuori che gli vuole far leggere le nostre notizie, appunto, può sfogliare direttamente la rivista quando esce su ilpais.it, si sfoglia, si legge tutte le volte che si vuole, con comodità. Erba e sole stanno alla base di un'industria strategica nella storia, non solo sociale, del Friuli, quella casearia che Enos Costantini auspica poter rinascere per il bene di tutti. Tra il 1880 e il 1916 sorsero in Friuli ben 321 latterie sociali, dicesi 321. Tale numero si avvicinò allo zero nel 1917 per le ben note cause belliche, la causa delle quali non furono gli austriaci, bensì una minoranza rumorosa che nulla sapeva e nulla voleva sapere delle latterie e del mondo che vi gravitava intorno. Nessuno storico ha poi notato che la prima industria a riprendersi dopo la guerra detta del 15 fu l'industria casearia, cioè le latterie sociali. Si riprese così bene che nel 1924 le latterie erano già 425 con 775.000 quintali di latte lavorato e nel 1940 erano 627, numero col quale si raggiunse praticamente la saturazione del settore. Tale rapidissimo sviluppo fu merito della innata capacità dei friulani di mettersi assieme e di cooperare, e vituperato sia chi ancora afferma il contrario. Col motore della Sante Scugne e qualche taiut in corpo, i friulani sanno stilare uno statuto, eleggere un consiglio d'amministrazione, un presidente, eccetera, eccetera. Ma le condizioni sociali non bastano, ci vuole la materia prima. Se l'industria siderurgica ha bisogno del ferro, per l'industria casearia basta l'erba, un bene riproducibile e autoriproducibile, resiliente, sostenibile, che per crescere, formarsi e riformarsi ha bisogno solo e soltanto di una energia che ora viene definita rinnovabile e perfino alternativa, cioè quella del sole, il caro vecchio buon Soreli che non serve soltanto a vendere creme solari. In Friuli c'è meno sole che in Sicilia, ma piove di più, e l'erba cresceva rigogliosa. Sul prato stabile si distribuivano i prodotti della stalla, cioè liquami e letami. Sul medicaio niente, se non qualche spolverata di guano e cainite per sentirsi al passo con la tecnica. Più ecologico e più economico di così non si può, anzi non si poteva. Poi è arrivato l'ettaro lanciato. Spero che non ci sia bisogno di un'altra guerra per fare risorgere l'erba. L'erba radioattiva non potrà che dare formaggio radioattivo per quei mutanti che troveranno riparo tra i ruderi di uno stadio dal nome russo. Con Marco Malison, responsabile tecnico-economico di Coldiretti del Friuli Venezia Giulia, parliamo oggi di allergeni e di informazioni al consumatore, con particolare riferimento alla ristorazione e all'agriturismo. Sì, anzitutto ricordiamo che sull'etichetta dei prodotti alimentari gli allergeni devono essere sempre evidenziati con un carattere diverso per dimensioni, stile, colore rispetto agli altri ingredienti. E la mancata indicazione degli allergeni in etichetta comporta una sanzione molto salata da 5 a 40 mila euro, mentre l'indicazione effettuata con modalità non conformi è punibile da 2 a 16 mila euro. Analogamente anche l'omissione dell'indicazione degli allergeni in fase di somministrazione al consumatore, compresi gli agriturismi, turismi è sanzionabile con multe da 3 a 24 mila euro, mentre se l'informazione è fornita ai clienti con modalità difformi da quanto prescritto, la sanzione scende, si fa per dire, fra i 1000 e gli 8000. E in caso di somministrazione, qual è la modalità di comunicazione più corretta? Allora, le modalità possibili sono due. La prima, elencando dettagliatamente sul menu per ogni singolo piatto gli allergeni contenuti con il nome proprio dell'allergene o un simbolo grafico o numerico specificato poi in un'apposita tabella. La seconda, richiamando l'attenzione del consumatore attraverso un cartello ben visibile in sala che riporti una dicitura del tipo le informazioni circa la presenza di sostanze che provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale di servizio. In questo secondo caso però occorre una documentazione scritta, meglio se in più lingue, anche sotto forma di tabella nella quale si elenchino gli allergeni contenuti nei piatti che vengono somministrati. Quindi anche il personale deve essere informato, preparato? Il rischio allergeni deve essere previsto e correttamente gestito tanto in sala quanto in cucina. È fondamentale che chi svolge il servizio ai tavoli sia sufficientemente informato sulle allergie alimentari più comuni al fine di poter rispondere a eventuali richieste del cliente. Naturalmente nessuno pretende una laurea in medicina, ma è fondamentale non sottovalutare il problema se qualcuno fa domande sulla composizione delle pietanze. In cucina poi il cuoco deve valutare con attenzione gli ingredienti utilizzati in ogni piatto preparato con riferimento a quanto dichiarato nel menu. Se per esempio cambia ricetta con l'introduzione di nuovi ingredienti potenzialmente allergenici, dovrà informare chi fa il servizio al tavolo. E quali sono gli allergeni più comuni? Cereali contenenti glutine, pesce, crostacei, molluschi, latte e derivati, uova e derivati, arachidi, frutta a guscio, quindi nocciole, mandorle, noci, eccetera, soia e derivati, lupini, il sedano, la senape, il sesamo, e l'anidride solforosa o i solfiti utilizzati come conservanti negli alimenti e nel vino. Non è propriamente un colore, ma la mancanza di colore. Stiamo parlando del nero, che nell'arte tintoria ha le sue difficoltà. Il nero riunisce in sé tutti gli altri colori. In passato, nella tintura delle fibre tessili, il nero era il colore più difficile da ottenere, specialmente se si voleva una tinta viva e brillante che si differenziasse dal nero sbiaditto e smorto delle vesti dei poveri. Spesso i maestri tintori usavano fare una prima tintura con una base di guado, isatis tintoria, per ottenere il blu, poi un secondo passaggio con il rosso della robbia tintorum ed eventualmente un terzo con il giallo della reseda luteola, oppure una sovratintura con il campeggio, haematoxylon campechianum. In questo modo si operava individuando i colori complementari e le fasi operative si basavano sulle combinazioni delle diverse colorazioni. Quando invece si preferiva utilizzare un unico vegetale per estrarre il nero, questo doveva contenere dell'acido tannico o tannino e spesso nelle fasi operative di tintura compariva anche il solfato ferroso. Proprio per questo processo che sfruttava la combinazione dell'acido tannico con il ferro, il nero ottenuto veniva chiamato nero al tannino. La corteccia di alcune piante è generalmente la parte del vegetale necessaria per tingere grigi scuri e neri. Ricordiamo lontano, alnus, che era utilizzato anche per la concia casalinga del cuoio e per la tintura in grigio delle pelli leggere. Le cortecce di olmo, ulmus e di melograno, punica granatum, erano altrettanto importanti per estrarre materie coloranti per tingere i filati di nero solido e brillante, aggiungendo dei sali di ferro nel bagno di tintura. Per concludere vorrei sottolineare che negli ultimi anni si è rivolta una grande attenzione alle piante coloranti e alle tecniche tintorie naturali, sulla base di una nuova esigenza di utilizzo di prodotti ecologici e sicuri per la salute e per l'ambiente. Ma non sempre naturale significa anche sicuro. Alcune piante contengono composti tossici in concentrazioni nocive per la salute. Contemporaneamente, alcune tecniche di estrazione del colore e alcuni mordenti possono essere altrettanto pericolosi, senza contare l'impatto ambientale che alcuni di questi prodotti possono provocare in fase di produzione e di smaltimento. Le tinture naturali devono quindi essere utilizzate in modo consapevole ed ecoresponsabile. Oggi con Franca Merluzzi parliamo del giardino del comune, del palazzo municipale della città di Spilimbergo. Il giardino circonda l'edificio che fu una delle dimore dei signori di Spilimbergo, ramo di sopra. grazie a un intervento di restauro, ha riacquistato il suo splendore ed è diventato la sede municipale. La sua posizione sul colle di Valbruna è dominante e il palazzo dipinto pare gareggiare con il castello che sta sulla collina di fronte. Nel 2010 e 2013, sulla base del progetto realizzato dal comune, sono state recuperate anche le pertinenze verdi del palazzo. L'intervento ha mantenuto l'antica suddivisione. Il primo giardino è quello davanti al palazzo municipale e ha come in antico funzione di accoglienza. È protetto da alte muraglie, 18 del tagliamento, ed è composto da 4 grandi aiuole. Attraverso un cancelletto si entra nel giardino formale, che è posto a un livello inferiore ed è ornato da piante di bosso, da olivi e soprattutto da rose antiche. E poi si scende ancora più in basso al giardino in riva a ponente, che è terrazzato e comprende una zona per le lavande alternate al papavero orientale rose coprisuolo, un orto per le erbe aromatiche e una zona per le piante da frutto. Sulle rive est, lungo il pendio degradante verso il tagliamento, sono state messe a dimora 110 barbatelle di vite, varietà Isabella, maritate ai pioppi neri, e 25 olivi. Questo bel declivio coltivato si vede da lontano assieme all'antica chiesetta dell'Ancona. Questa riproposizione del giardino orto frutteto è la degna cornice di questo prestigioso palazzo cinquecentesco. In questo momento c'è un problema. Una parte del giardino non è sempre aperta, come avveniva fino a poco tempo fa, quando si poteva accedere liberamente, perché ci sono stati episodi di inciviltà. Il comune, attraverso il sindaco, assicura che c'è la volontà di riaprire l'intero giardino, anzi di utilizzarlo in una prospettiva turistica. Il palazzo è già inserito nel percorso ciclopedonale e l'amministrazione comunale sta valutando l'inserimento di opportuni accorgimenti per la sorveglianza del giardino. Inutile nasconderlo, il patrimonio pubblico, verde compreso, crea problemi di gestione. Comunque, il contesto del palazzo di sopra merita una visita. Si può accedere sempre alla corte interna lastricata e andare ad ammirare il paesaggio che si vede dall'ampio belvedere sul tagliamento. Dicono che dopo i temporali estivi, sulla grava si crei un'atmosfera evanescente, quasi magica, bellissima da vedere dall'alto. Seppur neonata, l'industria della grappa si sviluppò così rapidamente che già nel 600 si registrarono le prime guerre commerciali legate a questo distillato. Lagnanze dei produttori nostrani di grappa contro l'importazione d'acquavite foresta, cioè forestiera, si ebbero per esempio a Gorizia, come dimostrò Michele Formentini coi suoi studi oltre 20 anni fa. Primo di ogni altro aver dato principio in questo contado alla fabbrica di acquavita da vinasse dell'uva, e con un tal buon incamminamento di negozio da riuscire a esportare grappa in Slovenia e Carinzia, nel 1684 Marco Antonio Fiorentini interpellò gli stati provinciali contro il danno arrecato dai consimili prodotti di importazione, mentre i distillatori locali avrebbero potuto da soli coprire le richieste di questa città et contado, oltre a garantire un minimo introito ai vignaioli della zona, ancor meglio se autorizzati a poter liberamente vendere l'acquavite tanto all'ingrosso quanto alla minuta. Dati ribaditi 50 anni dopo da una supplica dei produttori del posto, dopo l'importazione ad opera di commercianti goriziani di centinaia di botti d'acquavita, proveniente dal Stato papalino e Venezia, causa immediata di comune discapito per distillatori prima capaci di oltre 1300 consi di prodotto nel solo goriziano, fra Canale, Collio, Cormons, Gorizia e Medea, mentre sotto il Stato di Gradisca se ne faceva pure in maggior quantità. Ora, gioco forza costretta quasi all'azzeramento per mancanza dell'esito. Questo stesso atto descrisse la distillazione come l'estrarre all'ambico l'acque vite dalle vinasse e vini guasti e dalle fecce, e altre cose inutili ad altro servizio fuorché questo solo dell'acque vite, e la definì apertamente come una delle maniere con la quale la povera gente della contea vassi procacciando qualche poco dinaro per adempiere alle gravezze pubbliche e sostentarsi, trattando i diversi beneficiati con poche ma chiare parole. In primis, li contadini, che dopo aver estratto a torchio il vino, vendono le vinasse arse ed asciutte e ne ricavano qualche dinaro da una cosa peraltro inutile. Quindi, li cittadini, artisti ed altri, che da esse vinasse ne estraggono a lambicco il spirito, ottenendone un pronto esito, con qualche vantaggio proporzionato alla loro fatica. E infine persino la stessa nobiltà e tutte le altre sorte di persone che se ne giovano, trovando con questa strada l'esito dei loro vini corrotti e guasti, come pure alle fecce delle botti che altrimenti dovrebbero gettarsi per le strade senza alcun emolumento. Dopo vari pronunciamenti per lo più a favore delle grappe straniere come ad esempio le mantuane, l'Imperial Regio a Società Agraria di Gorizia promise un premio di ben 25 fiorini a chi nel 1768-69 fosse riuscito a produrre avanti la società 4 bottiglie di liquore, che oltre a essere dimostrato fosse fatto d'uve raccolte in paese, una volta spedito a Trieste dalla stessa società, fosse riuscito a incontrare maggior esito e approvazione presso le barche delle nazioni estere. Ed ora il microfono ad Amos D'Antoni per l'andamento dei mercati agricoli. Andamento con spunti di ripresa venerdì scorso alle contrattazioni cerealicole e Camere di Commercio di Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 17,30 e 17,50 euro al quintale IVA esclusa. Il frumento ottenne una buona mercantile in aumento tra 17,70 e 18 euro, l'orzo tra 17,20 e 17,70. Rispetto ad un anno fa il prezzo del mais è aumentato di 50 centesimi e il frumento di 70 il quintale. Scambi sostenuti con discreti affari al mercato ortofrutticolo di Udine, dove l'insalata gentile viene quotata tra 1,80 e 2 euro il chilo, IVA esclusa, la lattuga Trocadero tra 1,30 e 1,40, i finocchi tra 1,20 e 1,30, il radicchio rosso tondo tra 1,70 e 1,90, le zucchine in fiore tra 1,30 e 1,50, i peperoni gialli e rossi italiani e la bieta costa tra 1 e 1,20, i pomodori italiani in grappolo tra 0,90 e 1,20, le melanzane tonde tra 0,70 e 0,80, le patate tra 55 e 75 centesimi il chilo, le fragole italiane e trentine a 13 euro al collo, l'uva Vittoria tra 1,30 e 1,60, le pere Carmen tra 1,20 e 1,50, le pesche, pesche noci, albicocche e meloni tra 1 e 1,50, le angurie tra 0,30 e 0,70, i kiwi stranieri tra 2,50 il chilo. Domanda sostenuta pure nel settore lattiero caseario, con il prezzo del latte naturale di vacca Franco Stalla, che compresa la refrigerazione, viene quotato dalla Camera di Commercio di Udine a 36 centesimi il litro più premi qualità IVA. E con il previsore dell'ARPA Osmer, Arturo Puccillo, diamo un'occhiata al meteo per la settimana entrante. È arrivata l'estate. Non che nelle settimane scorse non vi siano stati tratti meteorologici caratteristici di questa stagione, ma un tempo capriccioso, frequenti temporali, ricordiamo mai così tanti a luglio negli ultimi 20 anni, e temperature altalenanti, pur se di circa un grado superiore alla media, ci hanno dato l'impressione di una stagione incerta. Da oggi l'incertezza non ci sarà più per un po'. Infatti, un'alta pressione di matrice africana rimonta verso l'Italia e la nostra regione sarà interessata per diversi giorni da aria molto calda a tutte le quote. Anche domani, quindi, e fino a giovedì, avremo cielo da sereno o poco nuvoloso e potranno svilupparsi isolati temporali di calore pomeridiani, specie in montagna, ma non solo. Le temperature saranno molto elevate, con punte di 37 gradi, forse anche di più, martedì e mercoledì in pianura, mentre sulla costa le massime si fermeranno a 33-35 gradi e saranno invece le temperature minime notturne ad essere molto elevate, fino a 28, anche 29 gradi. Il caldo dovrebbe durare fino a giovedì. Da venerdì si avvicinerà aria più fresca dall'Atlantico, che farà scendere le temperature e potrà favorire lo sviluppo di temporali, anche se è ancora incerto in che misura e con che estensione ed intensità. Per essere correttamente informati quindi sulle evoluzioni, vi invitiamo a seguire gli aggiornamenti dell'Osmer ARPA sul web, sui social network e naturalmente sui programmi radiofonici e televisivi della RAI regionale. Alla prossima! Termina qui la puntata. Vogliamo lasciarvi con il proverbio friulano della settimana. Sal pluf di avost, al pluf grane most, ovvero se piove ad agosto, ci sarà abbondanza di grano, forse mais e vino. Coordinamento tecnico di Andrea Marmai, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it e potete leggerci e riascoltarci sulla pagina Facebook Vita nei Campi. Armando Mucchino, Rita Micoli e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica 2 settembre, dopo la pausa estiva che auguriamo ottima a tutti voi. Avete ascoltato? Vita nei Campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.